società dove tutto è merce, è logico che la natura venga devastata, il vivente saccheggiato. Sfruttamento della natura, schiavitù animale e addomesticamento umano sono la stessa faccia di una medaglia arrugginita. Ma se il nemico è uno, i modi di colpirlo sono tanti. Ogni lunedì dalle 21 alle 22, Radio Possum, la trasmissione che vi seziona lo sfruttamento. E allora, quando sono le 21:11 minuti, con il nuovo ma non così più nuovo orario, visto che è già di seconda mano, diciamo, la seconda settimana. Dai, ancora nuovo, insomma. Sì, ancora nuovo. Lavato con Perlana. Stiamo facendo della pubblicità occulta. Occulta. Manco troppo. E allora, questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa, quella che sentite è Radio Possum, con il nuovo spottino ritoccato. Troppo bello. Troppo coatto. Ci dicono stato... che è coatto, dicono proprio questo. Ce ne compiacciamo. Quanto ci piace la coattaggine, no? Vabbè, insomma, di che parliamo questa sera? Allora, questa sera sentiremo una compagna da Milano che ci racconterà un po' della situazione dei navigli, del prosciugamento appunto dei navigli all'interno di Milano, di quello che c'entra pure l'Expo in tutto questo. E vabbè, insomma, aspettiamo un attimo, facciamo questa telefonata e ci facciamo raccontare da lei tutta questa situazione. E allora sfumiamo Universal Pop Lab perché siamo in collegamento con una compagna dal profondo nord. Ciao, ci senti? Sì, sì, vi sento perfettamente. Ciao. Già qualcosa. Allora, abbiamo fatto una piccola introduzione, insomma, raccontando che te ci parlerai questa sera un po' di quella che è la situazione dei navigli a Milano. Allora, già che noi siamo a Roma e immagino che molte probabilmente delle persone che ci ascoltano poco sanno rispetto a questa situazione, vuoi farci un po' una panoramica di del perché andiamo a parlare dei navigli, di cosa sta succedendo ormai da anni? E insomma, introduciamo un attimo questo argomento. Detto in breve, Milano è percorsa da una rete di canali artificiali che vengono chiamati Naviglio Grande, Naviglio Pavese e Martesana. Questi canali vengono prosciugati due volte all'anno dal consorzio Est Ticino Villoresi per opere, così dicono, di manutenzione e pulizia degli stessi. Questo succede dal 2004. Nel 2005 c'è stato uno studio chiamato Studio Graia che mostrava come era possibile pulire i navigli lasciando un minimo di livello d'acqua, cioè di 30 centimetri, e questo livello avrebbe permesso sia al consorzio di pulire e di sistemare i navigli, sia ai pesci e alla fauna e flora che ci vivono di vivere abbastanza tranquillamente. Questo studio non è stato preso in considerazione dal consorzio e quindi due volte all'anno vengono messi in asciutta totale, e questo comporta la morte di milioni e milioni e milioni di esseri senzienti. Viene distrutta una biodiversità che non si ricrea certamente in un anno, e tutto questo soltanto perché il consorzio sostiene che i costi lieviterebbero troppo. Noi della Lega Abolizione Caccia siamo anni che scendiamo nei navigli, che tentiamo di salvare più pesci possibili portandoli in situazioni a loro più congeniali, come vari fiumi o rogge che scorrono vicino a Milano. Il fatto è che siamo in pochi, le emergenze sono tante e i pesci sono innumerevoli. Il consorzio dice che salva il 97% dei pesci perché li prelevano. Il problema è che questa è una grandissima fola e fumo gettato negli occhi della gente, in quanto loro salvano innanzitutto non tutti i pesci e non tutti gli esseri che ci sono dentro, perché ci sono anche gamberi, sia diciamo nostrani sia quelli alloctoni, cioè della Louisiana. Ci sono dentro tartarughe, ci sono anche piante e tutti quei microrganismi che servono per la vita di un fiume. Loro prendono i pesci spesso con gli elettrostorditori, vale a dire è una specie di zainetto con una specie di tanica, un bastone lungo dove passa l'elettricità. Loro mettono questo bastone nell'acqua, scaricano la corrente elettrica, i pesci vengono a galla, li prendono, li pesano, li mettono nei secchi, li mettono in un camion. Quindi non è vero che comunque salvano tutti i pesci, perché molti muoiono per la corrente elettrica, per la scossa, altri muoiono nel trasporto perché vengono schiacciati da altri pesci. E poi comunque hanno due liste nette: i pesci che salvano, che sono quelli tra virgolette nostrani, autoctoni, e quelli sempre tra virgolette stranieri, alloctoni, che considerano nocivi, e questi li uccidono. Li uccidono in svariate maniere: o li lasciano morire in pochi centimetri d'acqua, o li uccidono in altri modi che abbiamo saputo e che stiamo cercando di capire bene, perché a uno di questi signori, parlando con uno dei nostri, ha detto che hanno bruciato 200 kg di pesce. Anche qua noi parliamo di numeri, parliamo di essere senzienti, loro parlano a peso, non sono minimamente interessati alla vita di questi animali, non li considerano animali, non li considerano esseri senzienti. Già il fatto che fanno due liste è una cosa aberrante, è un po' quello che succede per noi uomini, gli italiani e gli stranieri che vengono a cercare protezione, asilo e una vita migliore. Cosa facciamo? Li etichettiamo, li rinchiudiamo poi nei vari centri chiamati CIE, o peggio ancora, come l'ultima tragedia, li lasciamo annegare. Finché ci sarà questa insofferenza, questo specismo efferato, non si riuscirà ad andare da nessuna parte. Noi siamo per una vita etologicamente giusta per tutti, e siamo soprattutto contro ogni tipo di sfruttamento animale e umano. Per questo molti ci guardano in maniera stranita quando noi scendiamo nei letti dei navigli e passiamo ore e ore nella melma nello dove morte, a tentare di salvare anche i più piccoli pesci che ci sono. Senti. Se si conta che poi nei navigli ce ne sono tantissime di specie, ed alcuni, e qua la gente dice che i pesci non sono intelligenti, ma questa è intelligenza. Alcuni di loro sono scappati dai laghi lombardi e attraverso l'acqua, sia naturali che artificiali, sono arrivati nei navigli, perché sanno che nei navigli uno dei più grossi loro predatori, che è il pesce siluro, il luccio, non c'è. Quindi questi scappano da un posto dove possono essere uccisi con più facilità e arrivano a chilometri di distanza in un altro posto dove sanno che hanno molta più possibilità di sopravvivenza. Senti, scusa, tu inizialmente ci dicevi appunto che ogni due volte l'anno i navigli vengono prosciugati per essere ripuliti. Ripuliti da cosa? Perché c'è bisogno di questa pratica? Allora, il fatto è, il consorzio in realtà non si occupa letteralmente della pulizia di fiumi. Quando parlo di pulizia è perché i navigli sono pieni di pattumiera, perché è qua un alto grado di inciviltà delle persone, la gente ci sbatte dentro di tutto, ma dai cellulari alle sedie a computer, noi abbiamo trovato il mondo all'interno dei navigli. Qua c'è una ditta che se ne dovrebbe occupare. Il consorzio si occupa prevalentemente di ripulirli in parte dalle alghe che vengono a formarsi, comunque le alghe servono ai pesci per nascondersi e anche come nutrimento, e fanno lavori di manutenzione per quanto riguarda gli argini. Questi sono i loro lavori. Due volte all'anno, bella domanda, non lo sappiamo perché. In teoria potrebbero fare una sola asciutta e sarebbe forse meglio, ma ancora una volta dico che tutto questo è possibile farlo lasciando un minimo di livello vitale, che sono 30 centimetri, come sostiene questo studio, che non è fatto da tecnici animalisti ma è fatto da tecnici, puramente tecnici. Quindi loro hanno guardato soltanto l'aspetto puramente migliore per i navigli, senza tener conto ovviamente della vita degli animali. Questo è importante perché comunque sono stati, passami il termine, freddi nel considerare le possibilità alternative e sostitutive di questo invece scempio che fa il consorzio. Ci sono anche altri metodi all'interno di questo studio che loro hanno proposto, ma il consorzio li ha praticamente tutti rigettati. Noi da anni che facciamo questa campagna anche sotto il punto di vista legale. Noi non molliamo, noi non abbiamo nessuna intenzione di mollare, anzi quest'anno hanno messo in asciutta totale dopo 10 anni anche la Martesana, e abbiamo un ottimo riscontro di pubblico. I cittadini si stanno finalmente incavolando, si stanno finalmente arrabbiando e sono disposti a darci una mano, anche dal punto di vista non soltanto come volontariato, ma anche dal punto di vista tecnico. Tra le altre cose, tra il 7 dicembre faremo un presidio sulla Martesana per spiegare ai cittadini cosa sta succedendo e il perché di questo ecocidio continuo. Ripeto, noi non abbiamo nessuna intenzione di mollare la campagna, anzi siamo più che mai convinti a combatterla con tutte le nostre armi possibili, perché siamo sicuri che alla fine ce la potremo fare. Il consorzio dovrà capire che le asciutte parziali le deve fare. Senti, tra l'altro, insomma, io ascoltavo l'intervista che era stata fatta a Radio Cane settimana scorsa, un paio di settimane fa, non mi ricordo esattamente, e parlavate anche appunto di un'oasi che c'è dalle parti dei Navigli e che è stata messa, insomma, in condizioni di precarietà. Perché? Che cos'è quest'oasi? Come nasce? E appunto quali sono le problematiche che adesso sta vivendo? Quest'oasi non c'è più. Quest'oasi è stata completamente distrutta. Quest'oasi è nata 2-3 anni fa, dopo che era stato abbandonato un progetto di fare un parcheggio. La natura, una volta che l'uomo ha smesso di metterci mano, ha preso il sopravvento e aveva creato questo microcosmo perfetto. Addirittura da uno studio che avevano fatto nel 2009 un botanico, erano cresciute anche delle piante rarissime. Ci vivevano germani reali, gallinelle d'acqua, bisce d'acqua, rane, tutti uccisi, tutti morti. Questo perché la Darsena, perché questo posto si trovava in Darsena, che è tra virgolette considerato il porto di Milano, non più in uso da anni e anni e anni, perché rientra in un progetto a noi aberrante, che è quello dell'Expo 2015, e quindi lì verrà fatto un chiamiamolo parco cittadino, e accanto verrà rifatto questo porto che a Milano non serve, però lo vogliono fare. Noi abbiamo provato con tutti i mezzi per fermare questo scempio, abbiamo contattato anche le istituzioni per far sì che venisse preservata quest'area, niente. Stanno facendo dei lavori. Noi eravamo già intervenuti l'anno scorso per tentare di salvare quante più rane possibili. Qualcuna l'abbiamo salvata, per quegli individui la vita è cambiata, gli altri sono morti sotto cumuli e cumuli di terra, spostati dalle ruspe. E l'oasi adesso non c'è più e pian piano verrà completamente interrata. Gli animali morti sono stati seppelliti dall'uomo e dalle ruspe, dalla terra e da tutto. Ancora una volta l'uomo ha voluto mettere mano e ha fatto disastri, e tutto questo per un progetto che rientra nell'Expo 2015, che sappiamo tutti noi che cosa vuol dire: soldi, profitto per alcuni e basta. Quindi, insomma, all'interno, diciamo, di tutto questo piano si ritrova anche appunto questa grande opera dell'Expo, che insomma porterà una grande quantità di cemento all'interno della città di Milano e appunto va a rovinare anche le poche aree verdi ancora disponibili sul territorio. Sì, sono a rischio dei parchi. Si stanno creando dei comitati per tentare di difendere le aree, chiamiamole cittadine, anche se è sbagliato, perché comunque il verde non è soltanto dell'uomo, anzi l'uomo dovrebbe essere quasi l'ultimo fruitore di questo, perché dentro ci abitano animali quasi di tutti i tipi. Purtroppo l'Expo si farà, e con esso tutte queste opere completamente inutili. La LAC è entrata in contatto con i vari comitati cittadini che si stanno creando, partecipa, io non lo sto seguendo di persona, questo è un progetto che sta seguendo, ne stanno seguendo altri della LAC, ma è entrata in contatto per far sì che si crei un comitato non soltanto ambientalista ma anche animalista e antispecista, per far sì che almeno si vengano a creare meno danni possibili e si possano salvare più aree verdi. Milano è già una città che di aree verdi non ne ha tantissime, almeno tentiamo di salvare questi piccolissimi spazi di verde, di luce, di aria, dove almeno alcuni animali possono ancora vivere. Abbiamo un parco chiamato La Montagnetta, dove ci sono dei ricci, abbiamo delle zone a Milano dove vanno a dormire dei gufi, abbiamo dei falchi pellegrini che stanno colonizzando alcuni grattacieli di Milano, ma domandiamoci anche perché dei falchi pellegrini arrivano in città e non stanno dove dovrebbero stare, in montagna. Sono arrivati qua, almeno tentiamo di salvaguardarli. Con l'Expo molto probabilmente tutto questo verrà stravolto, non si tiene conto di altri abitanti della città ma soltanto di alcuni esseri umani e neppure di tutto, e questo ancora una volta, anche se sembra banale dirlo ancora una volta, soltanto per il profitto di pochi. Noi siamo contro questo, noi siamo contro a ogni tipo di speculazione edilizia, ambientale, di qualsiasi genere. Noi siamo per far sì che gli animali selvatici che ci sono a Milano possano perlomeno sopravvivere il meglio possibile. È una battaglia che è difficile, è una battaglia quasi impossibile, perché comunque gli animali non vengono considerati, ma noi ci crediamo, ed è veramente quasi con stupore, si può usare questa parola, che per la prima volta dopo anni e anni dei cittadini che non si erano mai occupati per esempio dei pesci invece stanno cominciando a scendere al nostro fianco e ci stanno appoggiando in questa campagna, che appunto poi rientra nella campagna più grande anche contro l'Expo. Infatti mi interessava molto appunto approfondire questo aspetto, nel senso capire come, tu parlavi di cittadini che scendono insomma diciamo in piazza, cioè, piuttosto che si interessano diciamo di questo argomento, no? E quindi capire come la gente del territorio che vive vicino ai Navigli, che comunque si vive questo territorio un po' differente forse dalla Milano cementificata di cui noi abbiamo tutti un immaginario, come si stanno vivendo proprio questo aspetto, questo cambiamento del territorio, questa nuova ondata di cemento che sta arrivando comunque grazie all'Expo del 2015. Ma per fortuna non tutti sono contenti, si stanno formando appunto, come ho detto, comitati di cittadini in difesa del verde, e per quanto riguarda per esempio l'asciutto dei Navigli, è con piacere che posso dire, soprattutto gli abitanti che stanno sulla Martesana, perché hanno proprio le case che danno sul Naviglio e la Martesana attraverso un parco, si stanno, ma io uso tranquillamente questo termine, inferocendo, perché dicono che è ora di smetterla, che si possono dare anche i soldi in altre maniere e che comunque ci deve essere rispetto per tutti gli esseri viventi. A me più di una volta è capitato di, mentre salvavo i pesci con altri miei amici, di parlare con la gente che partivano da, a cavolo, però è sporco la pattumiera, a pian piano durante la discussione vedere che cambiavano pian piano idea e alla fine dicevano sì, avete ragione, ci sono i pesci, ci sono le tartarughe che la gente abbandona perché il bambino vuole la tartaruga e quindi gli comprano la tartaruga che poi non sanno gestire e abbandonano. Sì, avete ragione, questa è una cosa che non va bene perché rientra in un piano ancora più ampio. Vi diamo il nostro appoggio, hanno cominciato anche a scrivere alcuni di loro spontanea volontà al consorzio. Altri ci stanno scrivendo dicendo che vogliono venire con noi a Menavigli a salvare i pesci, altri ancora invece stanno facendo in giro anche per Milano dei report con foto che poi ci mandano. Noi abbiamo delle foto sulla nostra pagina su Facebook che è contro le asciutte dei Navigli che testimoniano dei lavori in corso fatti dal consorzio nei Navigli con l'acqua. Quindi vuol dire che si può fare in realtà. E se si può fare questo si possono fare anche tante altre cose. Si può anche arrivare, anche se sembra brutta questa parola, anche a un compromesso. Il compromesso è le aree verdi non si toccano, punto. Ci sono i soldi perché l'Expo ha un tot di soldi per ristrutturare determinate cose, benissimo, non usiamole per cementificare ancora di più, usiamole per migliorare alcune strutture che stanno andando a rotoli. Tra l'altro mi viene anche da dire non utilizzare appunto queste risorse rispetto a quello che dicevi pure prima, per ricostruire dei nuovi parchi, nel senso che noi stiamo parlando di magari un'oasi naturale, selvatica, dove vivono animali di diverse specie, dove ci sono comunque piante che crescono liberamente, e invece arriva la mano dell'uomo che deve organizzare l'ambiente naturale in maniera differente, molto più strutturato, metodico, a immagine e somiglianza dell'uomo, quindi un esatto. Parchetto col prato verde piuttosto che ne so la stradina, l'albero modellato, perché in quel momento va di moda l'albero fatto così o fatto cos'ha. E poi tipicamente diciamo i giardini vengono fatti con tutte quante specie di piante o di animali che non sono diciamo autoctone, causando anche un grave problema dal punto di vista della biodiversità delle piante presenti sul territorio, anche degli animali. Un po' lo stesso esatto. Discorso che facevi prima con le tartarughe si ripete puntualmente non solo con gli animali che vengono messi domestici nei giardini apposta, ma anche con le piante, causando un danno per la biodiversità delle piante, ma anche degli animali che si ritrovano da un momento all'altro senza il cibo che avevano sempre avuto o l'habitat che avevano sempre esatto. Avuto. Perché se l'uomo va a rompere una catena perfetta della natura, poi si crea un effetto domino, si rovina tutto. L'uomo nei primi anni 50 ha importato le nutrie per la pelliccia, poi si è accorto che non andavano particolarmente bene. Adesso che le nutrie hanno trovato un loro habitat a fatica, si sono inserite in un ambiente che non era loro perché vengono dal Sud America, si sono inserite qua da noi. Adesso si sono accorte che siccome non creano più profitto ma creano danno, hanno la possibilità di sparargli. Sì, e poi lo stesso discorso poi che viene fatto con molti animali selvatici importati dall'uomo, come possono essere molte specie di cinghiali, ma anche di conigli, volpi e esatto. Altre bestie che sono state appunto portate esatto. Per la pelliccia. Alcuni cinghiali sono stati importati da altri paesi perché potevano far piacere a un'altra categoria di persone che io e non soltanto io personalmente detestiamo, che sono i cacciatori. E giustamente questi cinghiali, una volta che si sono trovati qui, hanno cercato di adattarsi. Quindi l'uomo dove mette mano fa danno. L'uomo deve capire che non è al centro dell'universo, che il pianeta non è suo, che lui è un ospite esattamente come tutti gli altri e deve vivere nel rispetto di tutti gli altri esseri umani. Questa è la semplice base dell'essere antispecista. Noi siamo vegani e antispecisti perché pensiamo che bisogna portare rispetto a tutti gli esseri viventi, quindi non ci nutriamo di loro, non ci nutriamo con i derivati animali e non ci vestiamo con lana, seta, cuoio, qualunque parte animale, noi non la adoperiamo e siamo contro, come ho detto prima, lo sfruttamento animale e umano, perché pensiamo che se si parla di liberazione bisogna usare questa parola a 360 gradi. L'uomo non è capo di nessuno, l'uomo non deve comandare nessuno. Un uomo, perché nasce in Italia, non è migliore di un altro uomo che nasce in altre parti del mondo. L'uomo è uguale, anzi dovrebbe essere uguale, perché purtroppo questo è ancora un concetto talmente semplice che l'uomo non è in grado e non vuole capirlo. Siamo tutti uguali, nessuno di noi deve pensare a sottomettere, a schiavizzare, a sfruttare un altro essere vivente. Se mai si riuscisse a raggiungere questo traguardo, allora forse riusciremmo a vivere tutti quanti in un modo più corretto. Senti, allora ti ringraziamo per il tuo contributo, se non hai nient'altro da aggiungere ci salutiamo qui. No, magari. L'unica cosa, magari qualche altro milanese è in ascolto, se vogliono venire a darci una mano, la nostra email è navigli@abolizionecaccia.it. E tra l'altro ricordiamo anche l'appuntamento che hai lanciato prima per il 7, giusto? Esatto, il 7, poi 7 se volete, dicembre. 6-7 dicembre, primo pomeriggio sulla Martesana, il luogo preciso è ancora da mettere a punto, ma sarà un presidio scenografico, quindi ci saranno un televisore che proietterà video e immagini, ci sarà comunque gente che parla al microfono, ci sarà anche un banchetto informativo che spiega ancora più nel dettaglio quello che sta succedendo a Milano. È ora di dire basta, tutti quanti noi possiamo fare la differenza, ognuno di noi deve essere il cambiamento. Se la gente aprisse le proprie gabbie mentali e cominciasse a ragionare con la propria testa, allora sì che si può raggiungere i traguardi di cui parlavo prima. Se invece la gente continua a non voler pensare con la propria testa ed accettare determinate logiche che ci impongono dall'alto perché ci vogliono tutti quanti inquadrati, allora no, non si va da nessuna parte. Noi siamo qua perché noi crediamo di poter cambiare le cose, noi siamo qua perché la storia deve finire e combatteremo fino alla fine delle nostre forze. Va bene. Ti ringraziamo per il contributo, per queste iniziative insomma che avete. Chiunque insomma voglia rimanere aggiornato, ricordiamo navigli@abolizionecaccia.it per avere maggiori vostre informazioni. Ok, grazie. E crepi il cacciatore. Vabbè. Ciao. Buona lotta. Anche grazie. Ciao. Allora mettiamo una canzone e poi andiamo avanti con la trasmissione. Behind us in the dust, we had a place that we could call home in a life no. desperate, the hungry and the cold. We are the ones who kept quiet and always did what we were told. E allora torniamo in diretta con un momento, come si dice, Amarcord. Sì, ricordiamo i vecchi tempi andati. Parliamo un po' dei tempi andati. E allora, non so se vi ricordate quello che successe un po' di anni fa, precisamente 11, attenzione, precisamente 11 anni fa. La petroliera Prestige, costruita nel 1976 e battente bandiera delle Bahamas, salpata da San Pietroburgo e diretta a Gibilterra con 77.000 tonnellate di greggio, un numero che fa impressione, rimase gravemente danneggiata durante la navigazione il 13 novembre del 2002 al largo della Galizia. Dopo essere rimasta per 6 giorni in balia delle onde, la nave fu allontanata e affondò alle 8 del mattino del 19 novembre, spaccandosi in 2 tronconi a 250 km dalle coste, riversando in mare 63.000 tonnellate di petrolio che inquinarono circa 3.000 km di coste tra Spagna, Portogallo e Francia. Allora, perché andiamo a così a tirare fuori dalla tomba un episodio successo nel 2002? Perché è successo che a seguito di questo disastro incalcolabile. Beh sì, io mi ricordo, ero proprio bambina allora. Ma che stai a dire? Sì, ero vecchia anche allora, però però no, mi ricordo insomma le immagini e quello che accadde, nel senso ci furono chilometri e chilometri di costa appunto portoghese, spagnola e francese che furono totalmente inquinate dal greggio riversato insomma da questa petroliera. Fu un disastro ecologico allucinante in cui chiaramente morirono una quantità di animali, pesci, piuttosto che appunto uccelli che si riempirono di petrolio, e chiaramente pure le coste furono gravemente danneggiate da tutto il greggio che si riversò. E dopo quella tragedia comunque ne sono successe altre, visto che di catapecchie del mare, del petrolio ne sono affondate parecchie. C'è stato il disastro della piattaforma petrolifera della British Petroleum al largo del Golfo del Messico. tutto è andato avanti come se niente fosse, e adesso dopo... E mi pare pure che continuano pure a girare queste catapecchie, insomma... Continuano a girare e soprattutto diventa sempre più precaria l'estrazione del petrolio, visto che il petrolio sta finendo, quello che è rimasto è sporco, e per estrarlo servono mezzi sempre più insicuri, sempre più pericolosi. Abbiamo parlato del fracking, poi... possiamo parlare del canale dove ormai il petrolio viene estratto dal fango, e anche quello è un ecocidio. Ma che dovremmo farci una trasmissione forse. Comunque, fatto sta che è successo che c'è stato un processo, e dopo 11 anni il processo non ha condannato nessuno. Si è concluso con un bel nulla di fatto. Si è concluso con un nulla di fatto, come al solito. Non lo so, come se non fosse successo niente, come se... Sì, diciamo che appunto la sentenza del tribunale ha assolto sia dall'accusa di reato contro l'ambiente il capitano della petroliera, che è stato condannato a 9 mesi per il solo reato di disobbedienza per essersi rifiutato in un primo tempo di far rimorchiare la nave al largo, e il comandante assente dall'aula durante la lettura del dispositivo, che non andrà in carcere per limiti di età. È stato anche assolto il capo macchine, che allora il direttore generale della Marina Mercantile, e per i tre maggiori imputati appunto la procura aveva chiesto pene dai 5 ai 12 anni di reclusione per crimini contro l'ambiente, danni alle aree naturali protette, danni causati dal naufragio della petroliera. E la corte, insomma, ha dichiarato che il comandante e il capo della sala macchina non erano in grado di appurare il cattivo stato della petroliera, che era munita di tutte le autorizzazioni necessarie. Poi ti viene un po' il dubbio, no, di come appunto un comandante e un capo sala macchina non possano essere in grado di valutare lo stato della nave in cui vanno. Insomma, dovrebbe essere un po' il loro compito quello di capire se la nave può portare o meno appunto tutti questi barili in giro per gli oceani. No, ma poi oltre questo, comunque, sicuramente c'è l'occhio compiacente delle aziende petrolifere, che comunque sanno benissimo che queste navi fanno schifo, ma per risparmiare ulteriormente preferiscono comunque usare queste navi vecchie per trasportare il petrolio, e mettendo a rischio sia appunto l'equipaggio sia tutti e tutte noi, insomma, non gliene importa niente di quello che di una catastrofe come questa. E quindi niente, comunque loro non erano neanche finiti nel banco degli imputati. La cosa poi che mi ha fatto molto sorridere è stata anche leggere appunto che tra i responsabili politici dell'epoca c'è l'attuale premier Mariano Rajoy, come si legge non lo so, scusate, che nel 2002 era il numero 2 dell'esecutivo, che tentò di minimizzare l'impatto ambientale del naufragio della Prestige, e si rifiutò allora di parlare di marea nera, preferendosi riferirsi a filamenti simili a pasta da modellare per descrivere l'ammasso oleoso, scuro e viscoso che per molte settimane continuò a riversarsi sulle coste, insomma cercando di rendere nullo il disastro invece che si era abbattuto sulle coste. Certo. Ma comunque credo che un ministro non possa fare nient'altro, visto che mettere in discussione il trasporto del petrolio significa mettere in discussione completamente la civiltà occidentale. Chiaramente. E poi tra le altre cose io sorrido anche per le dichiarazioni delle varie organizzazioni, tra cui anche Greenpeace, che ovviamente si è fatta portavoce di appunto di queste battaglie legalitarie contro... diciamo i responsabili del disastro della Prestige, e appunto si sono indignate così per per quello che è stato l'esito, il verdetto della magistratura. A noi ci viene un po' da sorridere, visto che poi affidarsi alla magistratura così per combattere il potere è quasi uno simoro, non so come dirlo. Sì, un bel controsenso, nel senso che appunto c'è... Non riusciamo neanche a concepire come appunto una magistratura, una corte possa andare poi contro gli stessi poteri. Certo, che la tengono in vita, andare contro i propri interessi. Sì, quasi è come se avessimo chiesto alla compagnia petrolifera di giudicare se stessa per l'ecocidio che ci hanno regalato così. Sì, infatti poi appunto mi viene anche un po' da pensare, no, che tra gli accusati, quelli che venivano diciamo imputati e portati di fronte alla corte, ci sono i trasportatori però dietro i trasportatori chiaramente ci sono le grandi industrie petrolifere e estrattrici, che chiaramente non vengono minimamente nominate. Ti viene un po' da domandare, no? Perché questi non vengono minimamente citati in causa? E vabbè, comunque che ci sia di lezione quando diciamo è la prima svolta che viene sempre portata avanti anche in maniera un po' paracula, tra virgolette, secondo me, quando c'è una qualche campagna, è sempre quella legalitaria, è sempre quella di agiamo attraverso il sistema per combattere il sistema. Il rischio che si corre poi è questo, che il sistema non vuole giudicare se stesso perché si vuole mantenere così stabile. Più che rischio, parliamo ormai di consapevolezza, credo. Di consapevolezza. Va bene, e allora dopo così questa triste parentesi della Prestige, che comunque vabbè, tra l'altro poi appunto la pena massima che veniva richiesta, non che comunque ci interessi fare un cioè non che ci interessasse che andassero in carcere queste persone, però la pena massima richiesta era 12 anni, a me mi fa pensare al fatto che comunque i condannati e le condannate per il G8 di Genova hanno subito la stessa pena per aver infranto una vetrina, o per essere stati presenti mentre qualcun altro infrangeva la vetrina e non averlo mandato così bevuto. Certo. E invece qua appunto affonda una petroliera con 66.000 tonnellate di petrolio, ma sì, ma che ci importa, ma va bene, e allora così va bene tutto. Allora mettiamo una canzone e poi andiamo alla prossima notizia, che è un po' più amena, che è più allegra, decisamente. Ok, meno male. Sabotaggio, sabotaggio, azione diretta. Cosa fai questa sera? Cosa fai questa sera? Cosa fai tutta sera? Cosa montagna, mio amore. Cosa felice, sono sempre in cuore. Tanto sabotaggio, azione diretta. Cosa fai questa sera? Cosa fai questa sera? Cosa fai questa sera? Cosa fai questa sera? Passa montagna per mio amore, e pioggia vernice, sono gesti di cuore. Contagio, sabotaggio, azione diretta. Che lo fai stasera? Che lo fai stasera? Cosa fai tutta sera? Passa montagna per mio amore, pioggia vernice, sono gesti di cuore. Contagio, sabotaggio, azione diretta. Che lo fai stasera? Che lo fai stasera? Che lo fai stasera? E allora torniamo in diretta dopo questo breve stacco musicale. Sì, e andiamo a fare un aggiornamento rispetto a quello, vabbè, ne avevamo parlato già qualche puntata fa di ciò che era accaduto in Brasile. Se vi ricordate, appunto, dei laboratori erano stati presi d'assalto da una protesta che era montata, insomma, durante i giorni, ed era sfociata in una grande manifestazione in cui appunto avevano anche liberato parecchi cani presenti in questo laboratorio. E insomma, giunge notizia, l'abbiamo trovata su directaction.info, di una nuova entrata all'interno di questi laboratori, dove, se ricordate, erano rimasti ancora un po' di animali. E sono entrati, insomma, il 13 novembre un gruppo di attivisti e sono riusciti, insomma, a liberare ancora 300 tra ratti e topi che ancora erano rimasti all'interno del laboratorio. E vabbè, insomma, quindi così, giusto per ricordare che questa protesta, nonostante tutto, sta andando avanti, non è terminata, insomma, in quelle giornate di grandi manifestazioni, ma ancora, insomma, gli attivisti stanno cercando di portare avanti le liberazioni, visto che parecchi animali ancora erano rimasti rinchiusi in questi laboratori. Va bene, allora credo che le notizie le abbiamo finite, abbiamo da dire gli appuntamenti. Sì, passiamo agli appuntamenti. Allora, vi ricordiamo che il 22 novembre ci sarà a Bresso, in provincia di Milano, la mobilitazione, ancora una giornata della campagna di mobilitazione contro la vivisezione. Il comunicato è lungo, ma comunque fa parte delle mobilitazioni contro Air France KLM, che ricordiamo è una compagnia che ancora trasporta animali per la vivisezione. E non solo, visto che comunque è una compagnia che si occupa anche del rimpatrio, delle espulsioni per quanto riguarda i migranti che non hanno il permesso di soggiorno e quindi sono clandestini. E vi rimandiamo al sito www.informazione.info per leggere il comunicato più per intero, oppure sul sito lalepre.noblogs.org o ancora su gatewaytohell.net, che è il sito proprio della campagna contro Air France KLM. E niente, credo che questa fosse l'ultima cosa che abbiamo da dirvi per questa sera. Non so se tu devi aggiungere qualcosa. No, direi che siamo ci a posto. Siamo. Va bene, allora, come al solito. Ah no, voglio dire i contatti, magari. Magari sì, così, giusto se qualcuno ci vuole scrivere. Ah, tra l'altro facciamo un appello in radio alla ragazza che ci ha telefonato lunedì scorso. Ci siamo persi la tua email, scusaci, se ci puoi ritelefonare ce la segniamo di nuovo. Sì, oppure appunto se ci vuoi telefonare, oppure ci puoi sempre scrivere alla mail alla gazzaladra@inventati.org. E invece, insomma, per chiunque volesse rimanere aggiornato, riascoltare le vecchie trasmissioni oppure quella di oggi, può andare sul nostro blog, che è radiopossum.noblogs.org. E poi vi ricordiamo anche i contatti della radio dalla quale trasmettiamo, che sono il conto corrente postale per sottoscrivere 61804001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 00185, Roma, o anche il sito www.ondarossa.info, dal quale potete sottoscrivere cliccando sull'apposito bottone sottoscrivi. E visto che ricordiamo che questa radio vive senza padroni, senza pubblicità, senza finanziamenti né pubblici né privati, ma soltanto con l'impegno militante degli ascoltatori e delle ascoltatrici. Va bene, a questo punto direi che salutiamo tutti e tutte, soprattutto coloro che sono privati della loro libertà personale, siano essi umani o non umani. Ciao.